macchina non andava bene. Non andava bene. Allora, siccome ne avevo uno regolabile, gli ho messo quello regolabile. Ed è una potenza. Lo so, tanto di potenza in più da. Magari non andava bene perché magari gli oggetti è molto usata e cosa, se non va uguale fa. Però io se li metto quello lì, già lo so io, due bombole manco per idea, due buchi no, una per tutte e due. Certo, anche se quella del forno mica ti dura mia tu, se ne compri una fatta per il forno. No, la metto fuori e boh. E alimento sia cucina sia cosa. E sia forno. Boh, finito. Sto fuori io per quella di quella cucina lì di qua. Siccome tu hai cucina, quella lì io l'ho messa fuori, l'ho messa. E hai visto. Aspetta. No, è un rompiballe. Non lo rispondo nemmeno. Spam, vai mia madre di vecchia. Blocca. No, non mi rispondo mai. No, io li blocco qua. Yes. Ma cosa vogliono questa gente? Sono un povero critico, cazzo. Va dentro, sono. Di una giudicata a San Mimone e Scimini da Guru, era mezzo nervoso, perché stava un pochettino troppo parlando, stava. No, io faccio un blocco numero, voce. Ma le blocchi mi hanno venuto 200.000, ne hanno 200.000 questi esseri parassiti, come li vuoi chiamare? Per rompere le scatole. Sì, guardando nel. Cioè una mi ha detto, ma lei abita in piazza Vittorio Veneto. E io ha detto, cercami, vai, girami le puntini puntini. Veramente, cioè, invece di dirlo giusto ha detto sbagliato, vai ammazza di vai. E così il forno lo metti in terrazzo? Sì, lo metterò in terrazzo, sì, metto un tavolino mi serve, per metterlo sopra. Sì, una mensola. No, è mensola troppo lunga, non va bene. Faccio un tavolino, ho più due tuffi che lo fabbrico io, qualcosa devo inventarmi. Naturalmente mi metto all'altezza giusta, io ce lo pago, però in più devo allungarti i piedi, perché i originali sono bassi, insomma. Perché li ho allungati i piedi e ce l'ho all'altezza giusta, non mi devo inclinare, mi ha avuto. Sì, abbiamo un tavolo già, non costa niente farlo, della misura sua, metterlo proprio sopra. Ma le palette, le corte le regalano, no? E quelle che danno anche la pala, in omaggio, oppure per gli affari. E poi c'era anche la cucina, loro fuggi sulla cucina, tanto se devi fare la pizza non devi usare la cucina. Sarri le coperte della cucina e lui la fuggi sopra, no? Coperchio già in ferro. Ma un po' pesanti, No, è leggerissimo. Puoi usare sul coperchio della cucina. Forno apposito, io l'ho preso perché è apposito, capito, non è un tubore di gas, anche se puoi fare un forno in casa, ma non è la stessa dedicazione, assolutamente, la tempistica non è la stessa cosa, soprattutto nelle pizze che deve cucinare corsina? Una pizza normale io faccio panetti da 280 grammi. Ah, perché molti ho visto che la fanno tipo focaccia. Ma se devo fare la pizza fai focaccia. No, qui non piace neanche qua. Se devo fare pizza fai focaccia. Se fai la pizza rotonda, no, non mi piace fare così. Aprire il panetto, non si tutto di però sono ancora anche con mattarello e il mattarello e si impara giustamente perché poi devi fare lo stesso registro eccetera eccetera. Sì, vabbè, lì mi mette mai aiuto col mattarello, se... ma puoi fare anche le pizze quelle al taglio, volendo possono fare le... Cambio lo spessore, un po' tutto, dai, cambia. Che una pizza al taglio la devi fare nella siga. Sì, devi fare un pochettino più grosse, ma tu le hai fatte le pizze al taglio, le sai fare? Sì. Taglio, non so, diciamo una pizzeria. Ah, e allora già le sai fare. E chiedo consigli a te, come che farina ci vuole, che tipo di cosa ci vuole. E un giorno organizziamo, compriamo tutto e lo facciamo. E rivendo, faccio il cannoncino, con le specie di pasta, a volte le pizza, le vendita di Rolù. Le schicette di pasta del panetto della pizza, poi fece da 2 centimetri facevo, le avvolgevo al viuster e poi le mettevo nella teglia. Si gonfiava, e niente, poco biasi all'inizio, 2 euro l'uno. Che sorriso. Ma hai guardato di là? E poi facevo i tranci. I tranci già pronti, con la roba già sopra, no? Tu non li fai, per me sono una teglia da scaldare. Ma avrai, cioè, lì poi la mentalità è diversa, anche se gli mangi il trancio a certe ore, a mangia subito, via, c'escono come niente, c'escono. Sì, ma poi da pranzo si denava, poi riprendevano alle 4, i ragazzini, tutto il resto della gente, dalle 4 in poi, alle 8 poi con le rotonde, fino alle 11, ma la mattina era più disastrosa. La mattina era più disastrosa perché c'era proprio le scuole anche da servire, al centro della città. E così che a riguardo le gente ferite la mattina. Se si guadagnava, Sì, all'epoca sì, poi era molto in meno, quando era ragazzi della scuola che trovo di scomprire. Come non sei rimasto lì? Perché poi sono uscito, perché per mio padre, perché da quei fratelli sono qui, c'è Fabio e su, mia sorella se ne accesa, poi non potevo accendere solo io perché ero io indipendente, ero un conto mio, gli altri erano poco principali. Che sono dovuto scendere io, però la cosa si è prolungata e tenerla chiusa non mi stavo arrendendo, allora ho detto quindi o tentiamo noi e vendiamo, cazzo, come ho messo la cosa di vendita al volo subito perché era al centro, cazzo, poi era già avviato da tantissimi anni. Però capo, scusami, anche tu devi pensare alla tua famiglia. Lo so, però era importante anche il genitore perché purtroppo se ne è andato lo stesso, ma io pensavo che era una cosa, lo chiudiamo qualche mese, cazzo, ma la cosa si l'ho trattata a lungo, mesi, non puoi stare chiuso tutti i mesi, anche perché io non ho una pizza, perché non ho detto, noi siamo qua e non mettiamo nel vendita, perché aiutamente avevo chiuso per ferie, no, che cazzo ero chiuso per ferie, ma le ferie dopo l'ombra, Allora, siamo andati a presidente in office, siamo stati qua, ho salito su, ho preso il cambio, siamo caricati a fare nell'appartamento e vengo fatto i pediatri con l'autorizzare per quando l'ho venduto per andare a fare in allocale e tutto. E purtroppo vanno così le cose in questo. E la casa che non l'ho fatta comunque, anche per dire, freddo non è svegliato perché non c'è stata un'impresa, è freddo, nebbia, la lasciamo perdere. E poi ho comprato la pizzeria, veramente mi sto comprando altri due, me lo prima di scendere, due da fare farina secca e una da fare roba di salma, roba salma, una trattoria. Ero già in fine trattativa perché hanno fatto di messo di nato, quindi. Ma difficilmente, per come la ragiono io, difficilmente avrei venduto niente. Avrei venduto niente, perché sono un po' in da maniera. È un po' particolare, io sono un po' testardino. Quando una cosa mi va bene poi non la mollo più. Antonio, cosa facevi? La pittura mi ha pagato. Non è che darla in gestione non mi fida assolutamente, perché se tutti mandano in malora, oddio, che è meglio venderla e si arrangiava per la pigliare. Io ripeto, chiuso con la scusa chiuso per sedi, ma quando sono arrivato qua questa situazione non era lì il goccio di mio padre, come pensavo io, e non per cose, ma non mi sono pentito di quello che ho fatto, preferito rimanere qua a chiedermi mio padre e poi mi ha subito anche mia madre. E non mi sono pentito di aver detto, assolutamente. Anzi, mi sarei pentito se avrei detto no, non ci scendo, arrangiatevi, ma stiamo scherzando. Bisogna fare un peso sulle misure, bisogna capire che quella tu ti hai creato una famiglia, l'altro sì, tuo padre e tua madre, ma fino non lo so, fino a quanto. Io avrei preferito, non lo so, forse la mia famiglia di più. Non si è dato togliere niente, capisci cosa mi voglio dire? Perché quelle cose poi negli anni non le togli più, capito? Negli anni avrei preferito più. Perché. Vabbè. Sono due pesi e due misure, però non è giusto che eri tutto tu e gli altri se ne sbattevano. Ecco cosa non era giusto. E perché gli altri avevano fatto principale, capito? Anche loro avevano famiglia e perché non potevano mollare. No, io non mi sono sentito assolutamente. Gli altri sono scesi direttamente al funerale. No, io non so, non l'avrei preso. Stando fuori e scendere solo, no, ma non mi sono pentito niente. È andata così pazienza, mi dispiace perché la gavetta era raggiubbata per anni su, prima di appunto di fare quel passo lì. E cosa vuoi fare? Poi vedi, ti girano le cose. Sapendo com'è finita adesso, mamma cuba le balle, ti prendi la parante e lo segui con la parante. Perché sapendo il futuro come è andato adesso, sì, tu dici non me ne pento, ma no, assolutamente. Io ho tenuto di più alla famiglia, mi hanno mandato in malora tutto ciò che è, poi comunque sacrifici, capito? Sono cose che non pensavo neanche che la banca mi avesse preso, tutti i figli, appunto. Però poi ho dovuto fare per forza la scelta, chiudere per fede purtroppo, perché sono dovuti prolungare, e è andata a finire così. Lo so, però no, assolutamente, cioè, perché io sono di quel parere, o si collabora tutti o non si collabora nessuno, chiama chi deve di chiamare. che, cioè, io lo capisco, l'ho fatto anche io, la verità, mi ci metto in mezzo perché l'ho fatto anche io. Io ho dato una mano grossa qua. Poi negli ultimi tempi la stavo prendendo di dietro, la stavo prendendo. Poi mi sono svegliato, ho detto no, adesso proprio preferisco la mia famiglia, non me ne sbatte più niente, perché io mi sono visto a certe cose allucinanti, dopo di aver fatto quello che ho fatto mi sono visto buttato fuori di casa quasi, e t'ha giù di tutto. Quindi da quando ho visto quella cosa io ho cominciato a cambiare idea. Ma tu mi fai essere sia perché sto tuo padre, o per tua madre, lo fai per te stesso anche, se ci tieni, se uno ci tiene, ai genitori, o ai genitori ti arrangi, ti fai, chiama tuo figliolo, fa tuo figliolo, tuo figliolo. Ma se uno ci tiene ai genitori, che poi quando ci pensi che non ci viene più, mica non è bello. Che rancori e le cose lasciale da fare, soprattutto in quei momenti che stai perdendo qualcuno che alla quale ci hai tenuto, e poi ripeto, uno non ci tiene, allora è un altro discorso. Non è perché non ci tengo, io qua mi sono fatto il culo, ho fatto di tutto, cioè ritornavo dal lavoro, c'erano due persone malate qua, e dopo facevo da mangiare i piatti, lavare in terra, ragazzi, accandarsi, ragazzi, ero fuso, ero crepato, non ce la facevo più. E cosa? Dopo tanti anni che io ho fatto questo, che io ho fatto quest'altro, poi me ne viene, che mio padre viene qua, in questa casa, una bocchinara, che il capo ci stava buttando anche fuori di casa, ho rischiato di dormire fuori. Io, mia madre era una persona bravissima, niente da dire. Io ho cambiato così idea. E ho capito tutto nella mia vita. Non ho conosciuto tua madre, tua madre era una santa, già ho conosciuto anche, veniva da mia sorella. Ma a me non è stato per tua madre, poi se tuo padre un leader che è comportato così, lì non ti senti, però ti saresti sentito con tua madre poi facendo quel discorso lì, capito? No, per mia madre non mi avrebbe mai rotto le scatole, non mi avrebbe mai dato problemi mia madre, te lo posso giurare. Quelle cose non le avrebbe mai fatte mia madre, ma mai però. Il figlio era il figlio e la figlia era la figlia, punto e basta. Tu lo fai per tua madre perché le hai voluto bene e non ti sei pentito di quello che hai fatto per lei. Come ti sei fatto con me, no? Io non mi sono pentito di avergli detto avete altri due figli, chiamate a loro. Assolutamente, assolutamente, perché io l'ho voluto bene, lui è normale, non si deve andare ai genitori. Ecco perché ti dico, io non mi sono pentito della scelta che ho fatto, perché me li sono voluti fino alla fine, cosa che non hanno potuto fare gli altri. Perché scendere direttamente a un funerale non è una cosa tanto, io l'avrei presa male, capito? Perché sei lontano, non sei dietro l'angolo, che giri l'angolo di sia a casa. Lo so, io ho accudito sia mia nonna che sia mia madre, cioè è tutto da solo, cioè io veramente non avevo più vita. Che per la mia famiglia io sono partito da solo, il bambino era piccolino, aveva un anno, mio figlio, quando io sono partito, un anno aveva, ti credi che per me sia stato proprio facile quando ho chiamato cercatevi lavoro lì che sto salendo, cercate dopo due giorni ti dicono sali che c'è il lavoro qua, pronti, ti credi che per me è stato facile? Non è facile fare certe scelte da solo. E non sai quando li puoi far salire perché non sai come va il lavoro, devi trovarti la casa, guarda che non è facile. Chi parla da dietro la fa facile, ma no, non è giustissimo, soprattutto quando era un bambino così piccolino. Purtroppo l'hai dovuto fare per dare un futuro pure a lui. Certo. E infatti che questi piccoli ha fatto ciclismo, anche lì campionati, le scuole a giro, soprattutto lì ha fatto, capito? E che ti vuoi fare? Questa è una scelta, guarda, andare fuori. È una scelta, devi avere, se hai qualcuno che ti aiuta, soprattutto nei primi tempi, ancora meglio. Cosa fai? Così è. Io avevo già mio fratello, capito? Mio fratello e mia sorella, loro, perché quando io tutto di stare qui, fatto il lavoro precario, ho chiamato mio fratello e mi hanno subito trovato la situazione. Immediatamente, mi dubiti, già me lo dicevano, ma perché non sono stati qua, cosa ci fai lì, già me lo dicevano. Ma appunto, cosa ci fai lì? È così, per voi, no? Meno male che almeno un po' di occupazione l'hai avuta. Adesso come adesso non fa andare, non andare fuori, a meno che non hai bisogno di pagarti. È un altro discorso, ma chi paga affitto, che paga, guarda, paga la tassa di euro, paga con 800 euro, paga la tassa. È un altro discorso. Ma se sei per conduttore è un discorso, se sei in impresa, perché io ero anche in impresa esile, no? E pagavo 800.000 lire, non pensare che siamo pochi, 800.000 lire poco da un classico stipendio. Non è che la pizzeria io l'ho presa subito. Sì, in aggiovato che ho detto prima, lavorando sabato e domenica per conto mio. Non lo so, purtroppo è un casino, è un casino nero, cioè non si può tirare avanti così. Cosa vuoi dire? Oh, io una merda, Noi siamo fortunati anche tu, ovvero perché sai, noi siamo non fortunati di più, perché una affitto minimo anche di noi è presa per tutto io. Capo. Immaginati chi ci ha comprato la casa e l'ha persa perché con la crisi che poi con l'euro ha peggiorato, che hanno perso anche la casa, la banca gliene ha preso la casa e magari gli mancava un anno di finire da finire di pagarla dopo 30 anni. Ma altro bisogno, la disgrazia. Ma cosa c'eri? Tu c'eri in cosa? Come si dice? Eri residente della tua mamma quando ti sei venuto qua? Io abitavo, sì, vivevo da mia sorella. Però avevo fatto la residenza qua. Ma è meglio così. Nonostante tutto ti vado in paga, per esempio, il passeggio di passaggio fuori, no? Quando fai il contratto fuori a nome tuo. Ma tra l'altro il barino. Io non ho mai pagato. No. Mai. Ma se hai fatto la voltura è automatico che devi pagare. Poi lì, quelle non sono comunali. Dell'aria sono per te. Sì, non mi hanno mai chiesto nulla. E allora tu non hai fatto contratto a nome tuo, non è possibile anche. Perché se tu vai all'aria e fai contratto a nome tuo, no? Come si chiesto a me quando è morta mia madre, quando è andata all'aria, ho fatto il passaggio da mia madre a me e ho pagato. Ma tu ti paga. No, io ce l'ho a nome mio, i bollettini arrivano a nome mio, il contratto è a nome mio. C'ho proprio il conto, tutto a nome mio. E non ti hanno fatto pagare il passaggio del contratto, sei sicuro? Non mi hanno detto nulla ancora. No, no, non è che io te lo dico di mio trombone in affitto, prima di firmare il contratto devi pagare, paghi e poi ti fanno firmare il contratto con tutta la roba, capito? Come che ti stai entrando per la prima volta? Oh, vabbè, io comunque sono interessato dalla casa, la casa è la mia, sono residente qua, la casa è la mia. Ma tu sei un affitto, giusto? Sì. Come sono io? Però a me me l'hanno fatto pagare il contratto, ma so che a tutti fanno pagare il contratto. Anche se tu ci vivi da tutta la vita, da quando sei nato, e poi muoiono anche i genitori, il contratto è stato col padre e lo fai a nome tuo, non ti fanno pagare. Io ho pagato 500 euro per fare il contratto. forse non c'è più il lato notarile, lo sai. Magari adesso no, non lo so. Io non ho di gratis fatture. No, non esiste più adesso. Se è gratis ancora non dice allora. Cappa. Perché mi hanno detto questi che l'hanno pagato lo Matessi. Questi di qua. Bene. Beh, sai cosa lo figlio? E allora non lo fanno più facendo pagare. Meglio così. Cappa. No. Non lo so, vuol dire che è così. Io comunque sono sicurissimo perché c'ho proprio le cose, tutti i fogli fatti dall'aria ed è passato a me. Sì, sì, vabbè, certo, avevi la residenza e come fattoria. È meglio così che non ti paga adesso. Cappa, è meglio così, sì, cavolo. Infatti non vorrei tenere un dito neanche all'epoca, neanche io. Cioè, sono una bighini, che ci sono io, scusate, a chi devo pagare? E tu pagare come fanno? Sì, ma passa da Mabutoio o da tua madre l'hai fatto a te? Già, da mia madre e poi a me. Per forza lo devi fare, capito? No, è tutto fatto, tutto a posto. Sono contento, cavolo, che ce l'hai almeno, anche io sono contento che ce l'ho almeno, non mi si muove più con il cura, perché io pago. Infatti ti ho detto, guarda, a me sono fortunato, perché se io me ne sarei sbattuto quando ero fuori, no, nel caso avrei perso questa casa, perché sarebbe tornata al comune, perché i miei fratelli erano fuori all'epoca, con la residenza fuori. E tu cosa ne sai le cose che non sarebbero andate più? A prenderti una casa così? Già lo so, già. E comunque dai, già andava. Oh! E chi è? Buongiorno, buonasera. Ciao già, buonasera. E allora, state parlando di case, già avete i buchi di là, di gas, di ghiaccio, di lasso, buh. Ma il discorso era che abbiamo la casa, per fortuna, la casa popolare, dai. Gianni è fortunato, vedi, Gianni sì che è fortunato. Io perché? Io sono come tutti gli altri, casa mia questa qua, però l'ho pagata, ho sudato per comprarla. Ma quella non era già dei tuoi genitori? No, io abitavo a Sacro Cuore con i miei genitori. Questa io l'ho comprata quando mi sono sposato. Sì, vedi, i sacrifici li hai fatti. E infatti lo dice Antonio, la fortuna chi ce l'ha già pagata, ma a chi come molti che gliel'hanno presa la banca, magari gli mancava un anno da finire di pagarla solo perché sono rimasti disoccupati, stanno i monibocchi garanzie utili. La gente infatti appigliamo molto, ma non ho visto anche brutti. No, poi adesso non è più come prima che la tassa fissa, adesso è variabile, aumenta all'impicco. Io quando l'ho preso io era al 9%, il mutuo regionale. E poi comunque sia, dire casa mia, certo, ma allora se è casa mia, l'altro giorno stavo guardando cose, quella storia, come si dice, casa tua non è tua, perché tu ogni anno devi pagare questo e quello? Allora perché dici che è tua la casa? E va ragione. Vabbè, se tu hai la seconda casa lo paghi l'IMU, se no ma dici no l'IMU. La paghi perché fa la seconda casa, ma se c'è una casa solo, grazie a Dio per il momento non si paga nulla, ce l'abbiamo pagata anche noi. Ti sembra giusto. Non è giusto manco per la macchina, perché devi pagare per la macchina il mollo quando la macchina è già tua, tassa di possesso, è già tua di possesso, che cavolo devi pagare di altro? La chiamo tassa in circolazione. No, di possesso è adesso. Ma per farti pagare la chiamo così. Tassa di possesso. Praticamente ti fanno pagare su quello che hai pagato già, capito? Tassa su tassa. Già, hai ragione, infatti lo dico in televisione. Compro quello non è mio perché devo pagare quello, l'altro. ma perché ho visto un filmato su internet, non so se l'hai visto, in Germania stanno facendo un casino, ci sono tutti gli agricoltori con i trattori, hanno buttato terra, hanno chiuso le strade, hanno fatto un casino. In Francia lo stesso, e poi hanno fatto vedere in Italia le pecore, capito? Germania e Francia, quando si muovono in capo una cosa. E infatti è vero, in Italia siamo un buco, per carità. Vabbè, il periodo dell'aumento del latte già c'è stata una sommossa, perché ma era solo di agricoltori e basta. E la sommossa era solo perché avevano un interesse loro particolare. Però quando c'è un interesse totale di tutta la popolazione, non farla in piazza. Ma sai cos'è anche già l'errore, a mio avviso, no? Che ognuno pensa al proprio santo, non pensa comunque a un domani di figlio o di un'altra generazione, no? Perché anche se uno ha un lavoro fisico, come può essere un dottore, un infermiere, perché non deve aderire a una cosa che è giusta anche per te o per sarà giusta per tuo figlio? Io ti dico, ma mi racconti, ogni anno si vede la giustizia, mi racconti che mi svegliolo, se sta lavorando, cioè non si fanno questi discorsi, secondo me. Devi aderire anche tu che hai un lavoro fisico, perché? Perché un domani le scelte, anche tue, sono ripagate tu. Hanno chiuso la casa di riposo dei Crunici, che è stata la prima casa di riposo a Sassari. L'hanno chiusa, immaginati. Ma qual è il viale, cos'è, viale San Pietro, dove c'era la radio prima? Me. No, è Sant'Agostino, eh. Quella lì. E allora? Ma stabili vuoti del comune, questi uomini guardano tra gentaglia dentro, e tu da una vita aspettando una casa popolare, e aspetti che come si svuotano gli stabili, si rimane di Trento, oppure occupano e non gli fanno niente. Ma hai sentito di quella signora che è uscita a fare la spesa, è tornata e si è trovata la casa occupata, è andata dai carabinieri per denunciare, ha detto che loro non potevano fare nulla, che doveva essere il giudice a farli uscire, che loro non possono fare niente. Sì, ho sentito, povera donna, è quella che si era incatenata giù, te lo ricordi? Perché non so, era andata a trovare la figlia, dove era andato, era ricoverata, ma a me. Sono andata a casa che si è occupata, allora si è incatenata io. Cioè, a che livello stiamo arrivando? Ma quando mai uno si appropria di una cosa tua, che non è come rubartela la cosa, si appropria di una cosa tua e i carabinieri non intervengono, ma lasciamo perdere, che anche la giustizia non è più a favore della persona onesta. Beh, ci sta di noi, no, perché se io ho il contratto, so, tiro pure la faccia il contratto, dici che la casa era mia, ma perché tu permetti a questi, non solo, li devi anche arrestare, perché sono entrati in casa mia, è come sono entrati a rubare, perché c'è tutta la mia roba lì. Tu li devi dire a Balgollarino e punire in galera, famiglia, bambini e quanto c'è. La più grande accusa è che ci sono i bambini anche, non li toccano, capito? Lo vedo che la roba ti ricordi in vura, quando uno che le hanno ritornata dopo tanto la casa, ha trovato la casa che non voleva vista, l'ha dovuta tutto ristrutturare, e tutta la roba che c'era dentro sparita, mobili, tutto quanto ci hanno portato via. Cosa vuoi fare? Li devi tentare quella famiglia lì, sperando che non ci siano bambini, tentare quando escono, cosa devi fare? E atti dentro quando esci con tuo moglie, momento esci non prendi conto questa casa. È perché poi ti porta la giustizia a fare queste cose, non è che non ti porta, perché intanto loro il letto ce l'hanno, a te devi vedere tutto a metà rira, nonostante c'è una casa. Non sei protetto, come dicono che loro proteggono il cittadino, ma dove? Dove? Che quando tu vai a fare una denuncia ti dicono che non possono intervenire, che deve prima decidere il giudice cosa fare. E cazzo, tu permetti di entrare un'altra persona estranea in casa mia e per forza la gente poi diventa pazza, cazzo, e usa le armi. Ma che faccia l'indulto, sai? No, devi tentare quando escono tu, e rientrartene dentro casa. Capito? Rientrartene dentro casa, prima possibile, ma poi perché sennò ti vende di tanto bene. Ma non è tutto che piglia la romana e la mette a fuori in carrera. Prima lui l'avrei picchiato forte, ma forte ti dico. Cioè, non so come l'avrei fatto. Cioè, gli avrei detto, se entro 10 minuti non te ne vai, cazzo, ti ammazza colpi. Cioè, ma proprio gatta, cioè proprio forte, forte, forte, senza pietà. Non bisogna andarci in questura a denunciare, no, bisogna fare come ha fatto un pastore di mia conoscenza. Ma lo sai cosa ha fatto? Questo qui era con le pecore e tutto, quando è tornato ha trovato la casa occupata da una famiglia di rumeni che volevano farci le vacanze, capito? Lui non è che è andato in questura, no? È andata su Tilleri, ha buscato 6 amici, tutti all'ospedale, i rumeni non ne occupano più di casa di quello lì. Bene, bene. Lui è successo. Questa cosa è successa a lui, l'ho voluta anche io sui giornali. E allora? Molto bene. È andata, ha pigliato 4-5 amici, sono entrati a 30 anni cutù, maci, femmine e anche i bambini, sono passati tutti, l'hanno cutti forti. E cutti pure di casa subito, immediatamente. Tutti all'ospedale, via, a farmi le vacanze. Sono andata lì e questi sono delle comunità, capito, che uno aiuta l'altro. Se tu incontri a uno, ne intervengono tipo come tesorini, intervengono tutti quanti. Ehi, ma fa bene il mitra, cazzo. A Savimone, come tre comunità, ma chiamate di massone, grazie con le voci, amici, vorrà che non vanno più le palle. No, la prossima volta basta, come se sono lì a 100 metri, basta cazzo tirare lì poche fucilate, se vuoi vedere fucendo, e dico cazzo nulla, e io dico ridacconi cazzo di toccano a tubetto fuggendo. Ma come c'è stato questo caso, che questa qua è anziana, se anche aspettasse che esco e ritorno a casa, poi starà con le col batticuore in casa dalla paura, perché tu dici vanno e con un'anziana che cosa puoi fare, cosa fa un'anziana, si difende. Certo, chiama 5-6 pastori, cazzo, di quelli belli amprosi, così come entrano, prendono e si scoppano pure le donne di quelli lì, non solo d'altro. O c'è Curilli, si ricordano i bulli. Oh yeah! Vai tu, Natalino, ne ho fantasia. Vengano a occupare qua, ti ricordo una fusilata a palla, cazzo, là su 6 metri a te. Dai no. Vai, ti con la giù, sono così, ma con tre. Venga, capiti, a casa. E adesso che la sua è invalido buro, mi. Ah, un pastore, gli avevano occupato la casa, così rumeni. No, è andata a Rosillera, ci ha fatto in camici, sono entrati e ne facciano un cura a tutti. Tutti all'ospedale, via! Chi mi aveva fatto occupare la casa? Come hanno fatto con quegli anziani, con l'altra famiglia, già di 10 anni prima. Quando le persone non si possono difendere, capito? Però stiamo attenti che c'è qualche anziano, c'è qualche arma nel cassetto, passerebbe tutti uguali. E come quello là che ha trovato il ladro in casa, te lo ricordi, quella sabbattaglia con Zaira? Ha colto il corpo di Busini e l'hanno condannato al duce, lo ricordi? Sì, in cucina l'aveva beccato, sì, me lo ricordo bene. Ma dimmi tu, eh? Cioè, è in casa mia, e poi l'ha fatto fuori in quel cortile, non so. Oh, bisogna che muoiano dentro casa. Se muoiono dentro casa non ti fanno un cazzo, non ti fanno manco il processo. Non li devi niente. Qua arrivano a fare la scala. quando fuggono la bisogna lasciarli fuggire. L'asino della sua classe e la principessa Diana. Perché non ti stanno aggredendo, allora ti fanno il processo. Invece se tu li ammazzi dentro casa, ti stavano aggredendo. E allora hanno turbato la tua privacy e hanno violato il tuo domicilio. Ma tutta l'interpretazione del giudice, capito? Quelli su chi l'hanno e l'altro, che magari l'interprete ce l'ha fatto troppo vicino, magari lui non ci aveva. Sì, perché qualcuno di noi biasi ha puesto una musica, amico. Cosa vuoi? Io attacco 2 kW. Sì, quando va a vedere Gianni? No, quando va a vedere Gianni? Tanto mai. Che ti faccio parlare col muro? Ma se non l'ho capito, no? Come dire, colpito. Comunque, Gianni. Del coso, di quando ero fuori. Era uno scherzo, era uno scherzo, dai, tutto passato. Mi sono in seconda, Natalino! Poi! Era uno scherzo, era uno scherzo. Ma tocca scaldare le valvole, cazzo! C'è il fatto che l'università di Edimburgo, quella dove... Qua vogliono, cazzo, fare... l'università qua... E quando scaldare le valvole è ora di chiudere. Guarda, fa una cosa, non gli rimettere tanti watt, non si sa mai, chissà cosa si farà a Cirimella, se fa, un mio consiglio mio. Quanti sono la carica? Due sono. Perché non ho trovato le valvole sue. Ma quello che è in campagna, la carica? No, un altro è. Veniva derisa anche. Io lo metto sempre a scaldare perché c'è freddo qua, e allora così mi scaldo. Mettiti le uova, figlio. Allora c'è la cucina per quello. Come stufa serve, qua sotto. Io ne ho conosciuto uno in campagna, ma quello è. E uno già ce l'aveva. Quello con tutte quelle luci che si accendono quando modulavi. E dice. Il giambo, te lo ricordi? Il giambaristocrate, l'ho avuto anche. Fare il giambaristocrate, quello lì, gatto. La lasciarla magari un po'. L'aristocrate è poco disturbato quello. Dico così, un po' di. Quello mi abbassava le lampadine di casa. Ma non credo, va qualcosa vada. E mamma si pone a morte, infatti l'avevo venduto. Se ne abusano perché io esco sempre con 2 watt qua. Chi fa la spia per denunciare? Allora c'ho 2 watt. Siamo a Napoli, una regola del genere. Io non mi do valvo. Io esco con 1 watt, ragazzi. 2 watt. 2 watt veramente, mi adesso no altro, guarda. Ed è... Qua. Ecco, adesso sono quasi 15, 15 watt sono adesso, di più non è là questo baracchino. Però io lo uso sempre con 2 watt, tanto basta per parlare in città. E certo che sì. Io esco con 1 watt, esco, mi sentono tutti, mi sentono. 2 watt. Ecco qua, cosa sta in Civia? Non ce n'è bisogno di potenza in città, siamo tutti vicino. E infatti, è solo che si ci mettono a disturbare, poi cosa vai? Quando ci mettono a disturbare, attacchi, molto ci vuole. E allora cazzo pigliano colpi da tutte le parti. Ci sei di nuovo organizzato. E l'antenna regge? Ma certo che regge. Anche perché... si scioglie. No. Con i tubi dell'acqua di rame no. E eliminando il PL no, non c'è pericolo. Ma non significa niente, ma se rimane un'antenna che non è molto performante, secondo cosa carichi, si va da Cirimella. Dice se è tanto lontano, quella di adesso si è sciolta a poco. Basta mettere il tubo di rame per fare l'induttanza di tutti, però questo mese... eliminare il PL, il filo vuole saldato direttamente, il capo vuole saldato direttamente alla, all'induttanza, basta, fatto. E così regge. Però non viene riusciuto. Il PL te lo scioglie tanto che si levano i vendini. Ma io ho ancora di quelli che imbattisce, ma ne sono rimasti due, cioè. Mi vanno, so, chi si qui i gialli, chi si ampano, però non ne vendono più. Me ne ho fatto arrivare 12, però sono quelli in baccheriste. Non sono quelli buoni che dicevo io, che li vendevano in bustina da uno. Quelli ampano, quelli non ne trovi. Io ho visti che costano 6 euro l'uno, arrivo un pareggio 6 euro l'uno, nel biglietto sono 60 euro in PL. Ma su internet ce l'è? Sì, a 6 euro l'uno. Non ci vuole roba buona per comprare così, ma ti durerà 20 anni. Quelli gialli sono quelli buoni, con la scritta Amphenol. La macchina da presa, il tuo fascino, quell'occhio che ti scrive. Che hanno e quindi, l'affare giallo, in questo momento, dove c'è il positivo. Manzoni, con tre uomini e un... Chissimi buoni. Perché quelli, ce li ho io quelli marrò, quelli stai dicendo tu in baccheria. Mi ha fatto arrivare a chi si di coso di Busaro Gesù Cristo mio, cazzo, una vita una mattina trovano sul pianerottolo di casa, si muovono quando arrivano al fondo corsa, si muovono. Infatti tutti questi pezzoni che ci ho già fatti li devo tutti sostituire perché non servono. Stava a vedere per quelle ghiere, te le sei dimenticato da tali. Di fare cambiarli quei PL che non abitano, cazzo. Ho fatto tutti gli spezzoni, cazzo, e non ce n'è uno che vada bene, che abita. Posso cambiarli cose, se già funzionano. E le ghiere. Le ghiere, però bisogna vedere se andare via che c'è PL, è questo il problema. Sì, dovrebbero andare bene, perché diciamo che la ghiera è uguale, è la filettatura che cambia. Io ce li devo cercare perché li avevo messi in una busta pronti per darti. Spiegando la gatta da dimmi che mi serve. Che ho messo tutto in delle cose di plastica che ho comprato, no? Ce li ho messi sopra l'armadio per non avere la roba in giro qua. Quando ho aggiustato la casa ci ho tolto tutto da me dalle scatole. Lo so, la roba in giro è brutta, meglio conservarla. E tutto in bacinelli di plastica, di dappi, di compadi, da cosa fai da nida. E io ho messo tutti lì, infatti devo trovarmi uno spezzone che avevo e ce l'ho messo sicuramente lì. Troppo corrente del televisore, Natalia. Ed è basso, mi dice, a Valbongo, mi qua, adesso è a uno il microfono. Era di un peso, oggi non è uno e domani dovrà appena dirci, ma poi lascia a uno. No, cosa dici? Massimo lo metto a 5 questo. Continuiamo a confabulare. Adesso si sente, ma di me. Sì, ma è a 1 adesso, mi. Poco fa era a 5, lo metto sempre a metà, perché tocco qualcosa senza guardare, so che è a metà, capito? È a 1 adesso, ed è basso il televisore, non è alto, no? È che amplifica un bel cazzo del microfono. Tu l'hai truccato, Cosa? L'hai truccato e so poco. Io sempre bumpava Ghiccio, cazzo, sono un po' sensibile, questi MB più 4 sono una cavolata di microfono, c'ho anche il Turner, c'ho... Cazzo, avevo attaccato l'MC60 a quell'altro, ma non va bene. adesso gli faccio la medicina dell'occhio, come ha detto Luca. Allora, fai la medicina dell'occhio, vedi come dopo come esce. Perché non va bene da lì? Non va bene, non si adatta a quell'apparecchio, perché no? Vanno bene solo sui Kenwood dell'MC60. Qua non va bene, non... Adesso lo so io cosa fare. Su 706 anche andava bene, ma 706 c'ha il compressore. Allora sabato che mi serve un po' d'aria. Gianni, questo te lo conosce. Il CB è 2006. Cazzo, allucinante, cazzo. Ma adesso il segnale di Luca va. Gianni. Ehi. Ma adesso il segnale di Luca, cioè, lo sai. Io? Certo, ho provato a... come si dice, a girare il RF Game, cavolo, mi segnava lo stesso segnale, stessa potenza. E perché più di 9.30 non segna, se magari Luca può essere 9.50 o 9.40, però non te lo segna, capito? Sì, ma ti capisce, se tu giri il RF Game, uno arriva a Santiago 9, l'altro arriva a poco più di Santiago 9, siamo quasi la stessa cosa. E chi è? Perché tu non puoi più basso ce n'è? Chi è avanti? Dai, mamma, tu sì che mi capisci. Dai, Luca. Dimmi. E Gareggio. Dico. E avanti. Dai, mamma, tu sì che mi capisci. Dai, avanti. Mi devo lasciare che devo cenare. Ci sentiamo più tardi al limite se ci siete. E a buona carica la tali. Ciao, ne è arrivato uno che ha detto a tu che si capisci, ma l'avete sentito? Sì. Magari, avanti, questa mi sembra una voce già conosciuta. Avanti già. Allora, ma con gli strumenti lì che mi ha mandato, cosa ne stai facendo tu oppure ti arrivano già così? Lo strumentino lo compri, io li compro su AliExpress, su Temu, anche Amazon li vendo. Io ho fatto il porta strumentino, perché te li vendono così, nudi e crudi. Ah, ho capito. Mi piace, li puoi mettere da qualche in vista, così, come hai visto, con quell'alimentatore switching, non è che sono bene, attacca di così. Allora gli ho fatto la sua basetta. Va bene, va bene. Solo che dietro rimane vuoto, va incastonato. No, è chiuso, è sotto che rimane aperto per passare i fili, dietro è chiuso, aspetti, mando la foto di quello che ho fatto. E dopo la guardo perché ce l'ho in carica il telefono, ce l'ho in cucina, sta caricando perché stavo cantando e l'ho scaricato. E stasera mi è venuto anche un mal di gola quando ho cantato. Sì, che appagaffa. Ci gusta duri, cantè. Vero? Sì. Una dopo l'altra, eravamo in due cantando, quindi prima ne facevo una a una e una all'altra. E io qua adesso sono un po' di giorno, cioè devo stare un po', perché mo parlo con la signora di su, quindi non voglio far casino, capito? Cosa c'è? Una signora? Quella signora di su, la nostra vicina, è morta, capito? Ce l'ho proprio di su, ce l'ho, capito, nel palazzo. Quindi adesso per qualche giorno lasciamo spento. Beh, se uno c'ha un po' di testa non si mette a fare festa. Non è come quando c'era. Quando c'era tuo padre che hanno fatto casino. Vabbè, teniamo un po'. Un po' spento, dai. Teniamo. Vabbè, l'ho smontato adesso, ma lo posso montare quando voglio. Allora ce l'ha la cassa col piedistallo e il microfono Shure. E me lo vuole parlare, tu dove me lo metto, ma lascia vicino, non tieni la casa di tua madre. Poi quando lo vogliamo usare lo possiamo sempre prendere. Cazzo, e il microfono Shure ti fa la voce limpida, proprio bella, cazzo. Ma anche quelli che ho io sono buoni, sono audio design, sono buonissimi. E noi usiamo solo quelli, usiamo per distorcere, sono le 58 sono generalmente, usiamo quelli, e poi c'è il 47, non me lo ricordo adesso, sono gli Shure, sono quelli, gli standard di un impianto audio, capito? Quello quello che c'ha Manuela c'è Brillantini davanti, non so se li ha attaccati lei o se è chiuso il microfono, c'ha la chiave di violino disegnata con i Brillantini. Sì, vabbè, quelli vabbè sono optional, però noi in genere usiamo lo standard di un service, il microfono della Schubert, no? Il standard. Mi ricordo l'M58 e poi l'altro che fa la voce un pochettino più, mi pare che sia il 47, il 48, non me lo ricordo adesso. Usiamo quelli, sono robusti e non hanno mai avuto nessun problema, durano molto, lo standard di un coso, cioè, di un service è quello, poi altre cose, altri tipi sono a parte. Vabbè, avanti a chi tocca, Lucrezia, Luca. Sono robusti, mi nave muzzetti invece ho già, che ancora sono andenti, che bisogna cambiare solo la retina perché sono addirittura appena di, ho furia di usarli, cavolo, appena di ruginella. E ci possono fare quelli lì, gli spruzzi, neri sono. Sono qualcosa argentato, dai, sopra. È venuto il cerco. Abbiamo quelli standard, abbiamo quelli, cioè abbiamo anche la scritta sopra nei frecchesi, capito? Io ne ho due dei cinesi per cantare con Catatù, ma non si viene a nulla. No, lascia stare. Funzionano senza filo anche, però i microfoni buoni si sente, sembra la tua voce in origine proprio. Quando si sentiva bene abbiamo cantato a Natale con Manuela, ha messo la cassa e l'abbiamo messo nel televisore, ma una volta, poi a parte che il televisore lo vedi un bel bene perché le lettere sono belle grandi. Scusa, ma cosa c'ha? Microfono, aspetta, dico cosa, che tipo di, c'ha mixer più microfono? Tu, cassa amplificata più microfono. E come lo collega senza un mixer? Funziona. Praticamente accende il televisore, mette il microfono, lo attacca la cassa rifà l'amplificatore. Invece che se c'è il mixer per fare l'amplificatore, c'è la cassa dove si può regolare il tutto, e di quale cassa è piena, si può regolare il tutto, capito? Puoi mettere l'eco, tutto qua dietro c'è tutta la mara. No, non mi piace, ma così mi spiace, ma no. Sì, l'ho capito come fa, usa l'RCA, userà, di che non penso, userà l'RCA sicuramente. Ma come cassa? Mi sa di sì, RCA mi pare, e comunque è una bella cassa, si sente bene. No, io preferisco il mixer, preferisco due casse, l'amplificatore, cioè, no, l'amplificatore no, sono già amplificate loro, preferisco così, perché oltretutto hanno una resa molto diversa, cosa, cioè, io sono un po' più particolare, quando devo attaccare una cosa che, sì, lo so che c'è il mixerino dietro, ma non sarà mai un mixer veramente, un mixer, ma magari ce l'ha pure, non lo so. Quello lì l'ha preso per casa, anche quando va a registrare le canzoni in sala di registrazione, vedi che roba di impianto c'hanno, hanno fatto anche il disco lì, con Manuela e Samuele e il ragazzo di G. Ho capito, ce l'hanno però un impianto serio. Hanno proprio una sala di registrazione, nel senso che dove registrano i dischi, tutto qua, dove prova, dove fare musiche. Samuele è bravo a fare musiche lui, è che non lo so se ce lo posso mandare, se lo trovo. Ti faccio vedere dove registrano, allucinante. C'è proprio la sala di registrazione, lei va dentro la cabina, eccetera, per cantare. Ma non qua in Sardegna, cioè, non lo so, perché anche noi abbiamo la sala di registrazione, Blue Studio, non so se l'hai mai sentito. A Bologna, Ecco,